poi sento dire Bersani cosa, quel che ha in testa Bersani lo sa solo Bersani, c'è nessuno che sa cosa ha in testa Bersani. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Giaguaro Maria, Giaguaro Maria. Sexy, sexy, sexy. Con la mossa del giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo frutto amaro. Con la mossa del giaguaro tutti sciogli piano piano. Con la mossa del giaguaro prendi questo ritmo in mano. La mossa del giaguaro come zampetti perfetti, movimenti sul fianco, in alto, in basso, il tocco dal collasso come miele appiccica nel sesso. Mario Monti, Napolitano Giorgio, Chiamparino, Mario Segni, Franco Cardini, Raffaello Mascetti, Stefano Rodotà, Valeria Marini, Nulla, Carfagna, non hai requisiti, Nulla, Claudio Sabelli Fioretti, Santo Versace, Veronica Lario. Oggi pomeriggio c'è stato un voto anche per Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, Rocco Siffredi, amico mio, sentiamo. Scelta civica, Lega Nord, ecco, sentite i voti. Sergio Chiamparino. Per Arnaldo Forlani, adesso per dire i burloni tra deputati, senatori Rocco e Siffredi. Consiglieri, eccolo qua. Un gran pezzo dell'Ubalta, bamba, disco samba, un po' di rumba. Arrivar giaguaro, un urlo nella giungla. Muovi la mano, giovane, una coscia lunga. Ma soprattutto il conte Mascetti, Raffaele Mascetti. Alias Ugo, cioè Ugo Tognazzi, alias il conte Mascetti. Lello. Terapia tapioco! Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Pepaldina. Come antifurto, per esempio. Professore, non le dico, Antani, come trazione per due, anche se fosse supercazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Pischelle belle, io giovane ribelle, coi tatuaggi incisi sulla pelle. Vabbè, insomma, la questione è molto semplice. Il PD è in confusione totale. Questa è la realtà. Ma io dico una cosa, Bersani, il signor Bersani ha perso le elezioni. Ha perso le elezioni, perché quello è chiaro, ha perso le elezioni, altrimenti sarebbe già premier. Ha vinte, diciamo. No, ha perso le elezioni. Non riesce a far eleggere uno dei fondatori del Partito Democratico come Franco Marini al Quirinale, ma per dimettersi da segretario, cosa bisogna aspettare? Che faccia una rapina in banca? Che uno fa una rapina in banca e poi si dimette da segretario. Il problema è che non controlla più il partito, questo è il problema. Cioè non controlla più i suoi, questo è il problema. Questo è il tema. Intanto Grillo impazza perché, come era largamente previsto, la candidatura di Rodotà mette in grande difficoltà il Partito Democratico. Sentite, presidente messo lì per salvare il culo a Berlusconi, Grillo. Il presidente della Repubblica è anche il capo del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, e può condizionare la giustizia da qua a 7 anni. Ed è messo lì per salvare il culo, lo sappiamo a chi. Ma allora, non c'è più scelta. Qui c'è da scegliere adesso tra un presidente degli italiani che sarà Rodotà e un presidente di Berlusconi che sarà Marini. Non c'è l'altra scelta. E allora assistiamo veramente a qualcosa di incredibile, dove questo Marini, che non è neanche stato eletto in Abruzzo, lui quando va al sud Italia devia dall'Abruzzo, passa direttamente da altre regioni, va dal Molise, gira così perché in Abruzzo lo conoscono, ha fatto di tutto, democristiano, ha fatto qualsiasi cosa, è un uomo corretto al suo modo, e suo modo è dentro il sistema. Come Buscaglione, il dritto di Chicago. Bisogna dire a Grillo che anche il signor Rodotà è dentro il sistema, perché è stato parlamentare più volte, parlamentare europeo, fondatore del PDS, presidente, primo presidente del PDS, vicepresidente della Camera. Quando elessero Scalfaro era accanto lì come vicepresidente della Camera, cioè è un uomo che fa politica da 40 anni. Bravissima persona, sì, eh. Ma non è fuori dal sistema come vorrebbe Grillo, è dentro il sistema. Vabbè, strapperei la testa del Partito Democratico, andrei sotto casa di Bersani. Sentiamo ancora Grillo. Ma se io avessi un premier così, ma quale straccio la testa? Ma vado a cercarlo a casa? Ma stiamo scherzando? Ma io spero che ci ripensi. Deve fare un passo indietro. Tutti i grandi dirigenti hanno rovinato questo paese, sono responsabili. Fate andare avanti i giovani, con i giovani possiamo avere qualsiasi tipo di colloquio. Coscia lunga, piedi più fianchi e palla questa rumba come Ramba, stile pornografico. Mascio piotta, muscio dei camerotico. Ovviamente il PDL per adesso è compatto su Marini, perché fosse eletto a maggioranza alla quarta votazione sarebbe sostanzialmente un presidente eletto dal PDL con la spaccatura del PD, cioè questa è la follia. Berlusconi, è la Berlusconi follia farebbe bingo. Abbiamo già un ospite collegato, però vi faccio ascoltare un'altra cosa di Grillo che parla con un ragazzino. Ma scusa, ma qui siamo alla seconda Grillo, votazione. Seconda ora, votazione, no? Che sarà nulla. Grillo ragazzino, senti. Questo frutto amaro. Oh, ciao ragazzi. Cosa ne pensi di Berlusconi? No. Okay, no, fai l'intervistatore, il reporter. Non ho pensieri di questo tipo. Sei morboso. Guarda quanto è buono. Assaggio, non assaggi, miei massaggi. Mando messaggi coi cellulari. Anche a tette grosse come Lolo Ferrari. Io duri e compari, flamine e corveleno. Roba guata. Beh, la situazione era già chiara questa mattina quando il titolo del giornale recitava enorme Marini presidente. Era diventato il candidato di Berlusconi. Grillo, un neurologo a segno di reinserimento nella vita reale. A chi si riferisce? E non se n'andavo più via! Allora vivono, dove vivono? Vivono in un sogno, in un virtuale. Allora è un problema, non è politico, è un problema psichiatrico. Bisogna chiamare un neurologo e dire: guarda, questo qua sta vivendo in una sua vita reale, irreale. Infatti quando escono, fini, se n'è andato, gli abbiamo dato 230.000 euro per l'inserimento, poverino, nella vita reale, perché non la capisco. Bisognerebbe scriverlo nelle portiere delle macchine blindate: state uscendo nella vita reale. Ma a chi si riferisce qui Grillo? A tutti i politici in generale. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Leonardo dalla provincia di Vicenza, buonasera, prima telefonata. Leonardo, vada. Intanto buonasera, niente, volevo dire che Berlusconi per adesso ha vinto ancora, perché ha distrutto il Partito Democratico, lo ha distrutto. Io sono un ex votante del Partito Democratico, andrò dritto come un treno verso Grillo, perché ha confermato che ha ragione, però adesso vince Berlusconi, ma alle prossime elezioni se ci saranno rimarranno soltanto lui e Grillo, ma Grillo avrà il 60-70%. Ma questo chi l'ha detto questo? Dove è scritto? No, vedrà. E se le piace così? Marini, se le piace il Marini, caos? Per carità, è una brava persona, no? Pronto? Sì, la sento, Allora? Ma che sta facendo questo qua? Cosa sta facendo? Vabbè, Rinaldo da Como, buonasera. Dimenticato buonasera, il telefono al bagno. Buonasera. Sì, dica. Guardi, io oggi sono veramente disperato, sto brancolando nel buio l'idea che finisca questa votazione con l'elezione di Romano Prodi alla Presidente della Repubblica. Che striscia la notizia come primo attore per 7 anni il Presidente della Repubblica Italiana. Guardi, veramente... io non dormirò 2 giorni e 2 notti fino a quando non finiranno questa. Vabbè, adesso non esageriamo, anche a me non piace Prodi al Colli, però non è che è il disastro, bisogna scappare dall'Italia come diceva Berlusconi, su dai, non diciamo stupidaggini. No, ma non si scappa dall'Italia mai, perché si adora l'Italia. E allora no, appunto non ma non possiamo essere rappresentati da Romano Prodi, Cruciani, ma si ricorda la tempesta di sabbia, ma uno che va a fare si crami la tempesta di sabbia, ma se la ricorda, l'ha mandato in onda 2 o 3 sere consecutive, cioè, ma il pensiero di un Presidente della Repubblica che parla in quella maniera, che si muove in quella maniera, cioè, io veramente, guardi, veramente non dormirò 2 giorni e 2 notti. glielo dico con sincera amicizia, guarda. Ma dai, non esagerare. Ma insomma, non questo paese ha avuto Presidente della Repubblica veramente da far discutere. Ma Leone, ma il signor Leone, ma di chi parliamo? Prodi è una persona eccezionale, conosciuta in tutte le cancellerie del mondo, un uomo dal profilo internazionale, in grado di voglio dire, ma perché? Lei forse si riferisce ad un altro Prodi, forse ha paura di quest'altro Prodi. Notizia, di quest'altro. Dai. Un generico Rocco Emiliano sospeso, attaccato ai suoi salumi, ai suoi valori, alle sue memorie, ma con questo odore di insaccato, indelebile. Gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Intanto prende consistenza, è arrivato già a 89 voti, ma potrebbe raggiungere quota 100 l'ex sindaco di Torino Chiamparino. È strano, colpo di scena questo. Beh, c'è chi l'ha votato. Tutti i renziani che l'hanno votato, forse si aggiungono altri deputati del Partito Democratico e chissà, chissà. Che potrebbe improvvisamente diventare chissà, lui che chissà. Ora è alla Fondazione San Paolo, peraltro, quindi chissà. Si occupa di banche, signor Chiamparino. Va bene, andiamo a Angelo, provincia di Roma, buonasera. Buonasera. Angelo, vada. Buonasera Cruciani, io sto seguendo la trasmissione sua parecchie sere e mi sto anche divertendo. Però io penso una cosa, ma non si rendono conto i grillini, i bersani, anche il PDL, tutti, che l'Italia è a pezzi. Ma cercate di fare sto Presidente della Repubblica, cercate. Vabbè, è passato un giorno, dai, su, amico mio, le procedure sono queste, non è che si possono cambiare in corsa, o c'è l'elezione diretta, si risolve tutto in un giorno, oppure le procedure sono queste. Dunque, ma questa volta non è colpa dei grillini, è passato un giorno, nemmeno un giorno, ne passerà probabilmente un altro di giorno. No, ma non è questo. Perché siamo già a 50 giorni, se avessero fatto subito il Presidente della Repubblica, certo, andava al governo. Capito, ma vabbè, l'Italia è fatta così. È disperata. No, ma lei ha ragione, i tempi dell'Italia sono questi, tempi biblici in tutte le cose. Cioè, tempi biblici in tutte le cose. Perché ci sono forze politiche irresponsabili, su, dai, questa è la questione. Ma che vuol dire? Ma forze politiche irresponsabili? Ma che vuol dire? Anche nella formazione del governo. Ma dici delle banalità assolute. Ma i grillini che puntano allo sfascio. Perché che dovrebbero fare? Ma che dovrebbero fare? A sfasciare tutto. Ma non una strategia. Ma anche, ma diciamola tutta, anche questa puttanata di eleggere le quirinarie, ma questa è una democrazia parlamentare in cui i partiti devono trovare la persona autorevole che rappresenti l'Italia, no? Questo deve essere, i grillini che lanciano le quirinarie, il popolo scelga chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica, ma mica è un reality show, hanno mandato in vacca un paese, è deleterio quello che hanno fatto. Vabbè, ma tu sei affiliato al Partito Democratico. Ma che mi frega del Partito Democratico? Bersani ha detto una stupidaggine assoluta poco fa quando dice bisogna prendere atto della fase nuova. Ma quale fase Raffaele nuova? Raffaele D'Avellino, buonasera Raffaele, dica. Non c'è. Renato dalla provincia dell'Aquila. Oh, buonasera Cruciani. Io per una volta tanto sono d'accordo con Parenzo sul fatto che il Quirinario sia una buffonata. Ma volevo dire un'altra cosa. Pure io, Quirinario, buffonata assoluta. Ma il Presidente della Repubblica è scelto dai partiti. Si rende conto che ha 65 anni e dice mandate avanti un giovane, con un giovane possiamo parlare. Lui cosa pensa di essere? Una verginella di primo pelo. Bersani dal punto di vista anagrafico è più giovane di lui. Poi magari, e anche in politica non è che sia nuovissimo, perché da un po' che ci si sta muovendo. Rodotà Grillo. Rodotà, il candidato di Grillo, ha 80 anni, ha fatto di tutto per il deputato, per cui non è un candidato nuovo. Vittorio? Eccolo, sì. Allora? Cosa fa? Che succede adesso? Io, rispetto a tutti i grillini che lo hanno indicato come un candidato ideale, lo conosco benissimo. Perché? Col pensiero, è stato in Parlamento con me. Era un uomo saggio e colto, ma certo. Non gli è mancato niente, ha fatto di tutto, ha avuto gli stipendi importanti di parlamentare, poi di authority di garanzia, sì. E poi soprattutto ha avuto una violentissima con il suo gruppo, sì. Quando gli hanno preferito presidente della Camera Violante, sì, come no. Sentiva maggiormente autorevole, significativo e rappresentativo, ha interrotto i rapporti con tutti i suoi e se n'è andato. Sì, ma il problema è che Grillo lo presenta come l'uomo contro la casta, come l'uomo fuori dai giochi, cioè in realtà non è così, insomma. No? Non capisce niente, cioè, voglio dire, parla, hanno scelto questo nome. Tra l'altro la cosa singolare è che hanno individuato uno del PD. per cui il gioco divertente è che certo. Il PD si trova a dover non votare uno del PD e a votare invece uno della Margherita o un democratico cristiano, quindi la contraddizione è evidente, però diciamo, dal punto di vista della verginità è molto più vergine, molto più naif il povero Marini nella sua semplicità perfino brutale, un po' contadina, un po' la Ligabue, sì. Di quanto non sia la Ligabue, il pittore sofisticatissimo, salottiero, legatissimo ai circoli di Scalfari. Poi oltretutto lui è un triplo potere, sì. Perché oltre a quello politico in senso stretto e quello dell'autority, che è comunque da buoni stipendi, da ottima casta, è anche il potere del giornalismo e soprattutto del partito di Repubblica. Lui è una delle firme, sì, come no, certo. Del gruppo. Per cui, vabbè, questo no. Che c'entra? Anche tu scrivi su Il Giornale, non per questo. No, io non sto dicendo che uno non deve scrivere, dico che quelli che scrivono su Repubblica sono un clan molto ben riconoscibile, sì. Che ha una forza di persuasione, di quindi come chi scrive sul giornale, un gruppo d'opinione, ma che è uguale, è un'altra cosa. Ma quello può anche dire, infatti io non sono candidato presidente della Repubblica, non lo sarei dei grillini, ma soprattutto il giornale, come tu sai, purtroppo non ha firme che abbiano quell'autorità. Cioè in che senso? Che sono tutte pippe, scusa. Non ho... È questo stai dicendo. Tranne te. Una cosa, il migliore italiano, il migliore grillino sarebbe stato Cossiga. Cossiga, certo. L'antipresidente, aveva come nemico, considerandolo una persona, Rodotà. Rodotà e Mancino considerava. Scusa, ma secondo te si può fare Chiamparino? Perché molti renziani oltre votano. Chiamparino è una buona scelta. Chiamparino è un personaggio che ha una sua rudezza, è un uomo serenamente ateo, quindi non va bene per la componente cattolica, va bene. Ma va benissimo, che tanto conta fino a un certo punto, va benissimo per il realismo, per il pragmatismo, è uno che poi non si è mai vergognato, insomma, non ha mai fatto la bella figa alla Rodotà. Comunque quindi Bersani ha cambiato cavallo ufficialmente, ha scaricato Marini. Comunque diciamo che non va bene né Marini né forse neanche Chiamparino, che pure è meglio di Marini e anche di Rodotà. Lì dovevano battere, cioè potevano tentare delle uscite che io ho proposto all'inizio, quella che avrebbe messo nell'angolo la volgarità e la miseria di Grillo, che è quella di Umberto Veronesi. Vabbè, ma Veronesi. Vabbè, ma Veronesi pensa a fare il mail, oncologo, fa le sue cose. No, è arrivato a un'età molto avanzata, è molto rappresentativo, è a 80 anni come Marini e come Rodotà. Comunque ha preso un voto anche Rocco Siffredi oggi, anche Siffredi ha preso. Ma anche Sabelli Fioretti, ma non voi due. Vabbè, ma noi non abbiamo. No, non è ancora detto, siamo alla seconda chiama, non è detto ancora, non è detto. Ieri sera ho sentito gli insulti che ti ha dato quello che diceva che sei un finocchio. Poi sai che la parola finocchio non si usa più, quindi insomma sei gay, era meraviglioso. E tu con l'aria rimissiva dicendo vorrei baciarla in bocca. No, ma hai detto nulla di essere rimissiva, un cazzo, ma proprio no, ma tranquillissimo ero. Ma strano che non ti abbiano candidato anche a te al Quirinale, però, Vittorio. Vabbè, ci penseranno, capiranno troppo tardi che lui più. Ma Prodi al Quirinale cosa accadrebbe secondo te con Prodi al Quirinale? No, ma non sarà, perché Prodi ha più nemici ancora di Marini. E Marini, secondo me, è stato cannato dal fatto che proprio è un ingenuo, è un ragazzo così, uno è sempre stato. Non ha peso, è leggero ed è una persona molto intelligente, simpatica, ma non poteva fare, cioè non va bene né per la mediazione né per la strategia. È stato un sindacalista che ha fatto la sua epoca, quindi effettivamente è un altro mondo. Ma Prodi divide ancora di più le componenti, il suo olivismo e quella che va dietro. Ma mica scapperesti dall'Italia come Berlusconi tu, no? Come? Mica scapperesti dall'Italia come Berlusconi se no, fanno. Io devo scappare, io non ho fatto niente, non sto da nessuna parte, sto per i fatti. No, ma poi chi no, se ne ma sarebbe perfetto. No, però Corto Prodi però non è una figura, cioè è ancora più vecchio di Marini e di Rodotà. Vabbè, ma il tuo candidato adesso qual è, Vittorio? Che poi devo chiudere, qual è il tuo candidato adesso? Ma dei candidati che sono lì, nessuno che non. Io penso sempre uno che venga da fuori, quelli che ho sempre indicato, Muti o Veronesi. Quello migliore di quelli che hanno detto è sicuramente Chiamparino. Poi non so, ma non va bene nessuno di questi, dovrebbero veramente sfavigliare con una figura che sta fuori dalle parti e che non so in quale mondo possono trovare, ma certamente il mondo della cultura. Proporrei, guarda, Cacciari, meglio Cacciari. Anche ma no, Cacciari, hai detto che non si lava i denti. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Che gira, che ronza, va zonzo tranquilla. Bello Mascetti, Stefano Rodotà, Valeria Marini, nulla. Carfagna, non hai requisiti, nulla. Claudio Sabelli Fioretti. No, guardi, no, non si può mica parcheggiare, quindi il Camposanto, no, non si può. Sbiriguda, supercazzola prematurata. No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. Le sono là, guardi, a destra, là. Ma qui non si fa paura. Io vorrei scoprire qual è il deputato o il senatore o non so chi altro che ha messo, vi prego, la prego, senatore, ci chiami e confessi, sono stato io quello che ha messo nella scheda il nome Conte Mascetti. Fantastico. Ma anche Rocco, Rocco Siffredi. Grande omaggio a Monicelli. Qualcuno dice i politici che prendono in giro se stessi e dunque sfregiano l'istituzione. Beh, questo è un po' sempre stato così, forse sì. Non a questi livelli, e questo bisognerebbe indagare. Ma Rocco Siffredi, negli annali parlamentari, non a questi livelli. Rocco. Scelta Civica, Lega Nord, ecco, sentite i voti. Sergio Chiamparino. Per Arnaldo Forlani, adesso per dire i burloni tra deputati, senatori. Rocco Siffredi. Consigliere, eccolo qua. Pietanza per la zanzara nella stanza. Lei russa e non si sveglia mai. Lei russa e sogna i fatti suoi. Grillo di oggi, un neurologo fine a segno di reinserimento nella realtà. Sentiamo. Allora vivono, dove vivono? Vivono in un sogno, in un virtuale. Allora è un problema, non è politico, è un problema psichiatrico. Bisogna chiamare un neurologo e dire: guarda, questo qua sta vivendo in una sua vita reale, irreale. Infatti quando escono, fini, se n'è andato, gli abbiamo dato 230.000 euro per l'inserimento, poverino, nella vita reale, perché non la capisco. Bisognerebbe scriverlo nelle portiere delle macchine blindate: state uscendo nella vita reale. La zanza. Rodotà, dice Grillo, non farebbe gli incontri di notte. Ora, questa cosa degli incontri di notte, in realtà non è che Bersani e Berlusconi sono incontrati di notte, si sono messi d'accordo sul nome di Marini. Poi Bersani non ha fatto i conti con una parte del suo partito. Non è che gli incontri di notte, gli incontri segreti, non è vero, non c'è nessun incontro di notte, anche se ci fossero incontri di notte. Appartengono alla politica, alle trattative, sì, normali, nulla, certo, di Carbonaro, che... nulla di massonico. Rodotà l'ho sentito un bambino, era euforico, sembra anziano. 80 anni, non è che sembra, però è uno col senso dell'umorismo, è un uomo eticamente a posto. Non lo vedo lui che fa un inciuccetto con Berlusconi di notte. Io non lo vedo che incontra qualcuno di notte lui. Se sogna i fatti suoi. E non incontrerà di notte Berlusconi, ma incontrerà di notte, magari avrà incontrato di notte dirigenti della sinistra degli anni passati, perché fa parte del sistema il signor Rodotà. Andiamo a sentire i titoli del TG3, su. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Nulla di fatto nella prima giornata di votazioni per il Quirinale. Marini si ferma a quota 521, Rodotà 240, nel pomeriggio sale Chiamparino. Bersani, prendiamo atto che si apre una fase nuova, faremo una proposta consultando i nostri grandi elettori. Renzi, Marini è saltato. Il segretario del PD sente Marini, per ora non mi ritiro, fa sapere l'ex presidente del Senato, Vendola, l'unica scelta è Rodotà, Bindi, ospite del TG3. Alfano, noi leali, ora cerchiamo una soluzione idonea sin dalla quarta votazione, la Lega aspettiamo, evitiamo strappi che portino alle urne. Grillo a PD e PDL, noi andiamo avanti con Stefano Rodotà fino alla quarta votazione, l'Italia è cambiata, la guerra è finita, ora arrendetevi. Una nuova tragedia negli Stati Uniti, in Texas esplode una fabbrica, molti morti, Boston piange le sue vittime, Obama vogliono terrorizzarci, ma sbagliano. La Cassazione annulla la sentenza di assoluzione di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, va rifatto il processo d'appello. Well now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. Squilla, squilla. Chi è? Non lo so. Eh squilla il telefono, non risponde nessuno. Aurelio da Salerno, buonasera. Aurelio, dica. Buonasera. Dica. Buonasera. Io sono indignato con Bersani e la classe dirigente del PD che lo supporta, perché queste persone, che molto poco hanno di politico, di statisti, non hanno veramente nulla, hanno deciso di lasciare, senso, in un momento, le spiego, hanno deciso di lasciare il paese senza un governo. Ma chi ha deciso di lasciare senza governo? Io questo non capisco. La dirigenza del Partito Democratico. Certo, perché all'indomani delle elezioni, quando è stato assolutamente chiaro, per chi non lo avesse capito da prima, che Grillo non avrebbe appoggiato e che Bersani non voleva apparentarsi con il PDL di Berlusconi, scelta che io potrei anche rispettare, però cosa aspettiamo? Quando lui continua a dire continuiamo a lavorare ad aspettare cosa? E mi perdoni e mi permetta. Cioè, lei, secondo lei cosa dovrebbe fare? Doveva fare subito un governo con Berlusconi? Adesso le dico la mia idea, poi lei mi dice. Ma cosa doveva fare? Mi risponda. No. Se lei mi dà il tempo, lui cosa doveva fare? Ha deciso di non andare con Berlusconi, mi sta anche bene, allora perché poi proporre un nome che è chiaramente un nome di nessun particolare spessore da votare insieme a Berlusconi? Cioè, a me viene da sorridere, perché Marini lo avrebbero portato le persone che non volevano fare un governo di larghe intese, mentre invece chi nel PD era favorevole ad un governo di larghe intese, cioè con Berlusconi, guarda un po', ha scelto di non votare. Lei ha perfettamente ragione che ci sia una strategia. Mi permetta, faccio un'altra considerazione. Ma che altra considerazione? Allora, dunque, conseguenze? Io penso che Bersani abbia atteso tutto il tempo che ha atteso, inutilmente, poi nel frattempo ci ha provato. No, non ci ha provato. È andata male. No, le spiego cosa è stato secondo me. È andata male. Le spiego la mia idea, lei poi mi dice se sbaglio. Io ritengo che il Partito Democratico è rimasto spiazzato dal fatto che, a differenza del 2011, i mercati non ci hanno messo alle corde, perché la dirigenza del PD aspettava, per poter giustificare un governo di larghe intese, che lo spread salisse a 500 e quindi poter dire purtroppo siamo costretti ad andare a fare con il signor Raffaele da Milano, buonasera. Occupato, quindi buon segno. Lorenzo, io propongo mio nonno a tutte le credenziali per mettere d'accordo tutti, soprattutto i 52 milioni di abitanti. È pensionato, ha più di 52 anni, non arriva a fine mese. Siamo alla follia ormai. C'ha un figlio esodato, un nipote disoccupato, non sa nulla di politica, in questo caso non serve a nulla. Tra l'altro non parla bene l'inglese, non serve neanche questo a nulla, tante. Sì. Le cancellerie d'Europa parli di allora? Inglese, non parli di inglese, italiani, il suo nonno è quello italiano, non gliene frega una mazza. Vabbè, ma su una provocazione, no, sarebbe quello giusto, mette d'accordo tutti gli italiani tranne i politici, però una cosa la sa fare molto bene. E che sa fare? Prenderli a calci in culo a tutti e farli lavorare. Ecco l'effetto del grillismo. Bravo. Eccolo qua. Eccolo che c'entra qua. Grillismo. È l'effetto del grillismo. Chiunque chiama e dice che deve essere Presidente della Repubblica. Ma è una cosa folle che non si è mai vista. È l'effetto di questa roba deleteria che si chiama grillismo, che il signor Cruciani ha sostenuto, appoggiato, finanziato, foraggiato, votato da mesi. E il risultato è che chiunque prende il telefono e dice io farei Presidente della Repubblica XY, che è una roba folle, i partiti lo devono fare, il Parlamento, non la rete, non c'entra niente, è deleterio, è una Alessandro cosa vergognosa, da Prato, vergognoso Alessandro questo, da Prato, questo buonasera. Gioco. Buonasera. Dica. Buonasera, volevo intervenire circa l'elezione mancata di la prima elezione e volevo fare una proposta di candidare a Presidente della Repubblica l'assoluto genio che ha votato Veronica Lario. Ma probabilmente uno del PD avrà votato Veronica Lario, immagino. Vabbè, forse chiunque sia stato è un genio, cioè Rocco Siffredi, Valeria Marini ci potevano stare, ma quello che ha votato Veronica Lario è un genio. Si manifesti, però dovrebbe manifestarsi, perché se fai la burla e resti così coperto sei ridicolo. Ma io ripeto, proporrei, se si manifesta, di proporre lui come Presidente della Repubblica, perché è veramente un genio, perché dietro c'è una pensata veramente che... Danzano come zanzare queste ombre sulla strada, e cadono le ceneri della città qui sulla strada, dove passano quei passi amari E sentiamo adesso come Renzi ha bocciato Franco Marini, perché diciamo la verità, alle invasioni barbariche, uno degli artefici, non solo le invasioni barbariche, anche in altre trasmissioni, uno degli artefici della caduta di Marini è stato Renzi, anche se poi ci sono interno, è un fuoco che arriva dall'interno delle file. Paradossalmente Marini è uno dei fondatori del Partito Democratico, tra tutto l'altro, è tranne che Berlusconi, anche di area cattolica come signor Renzi. Vabbè, insomma, non voleva questo accordo perché c'era un accordo tra Berlusconi e Bersani, questa è la sostanza. Ma sentiamo un Renzi versus Marini, uno qualsiasi, tanto uguale. Ma sicuramente Rodotà è meglio di Marini, ma ce ne sono tanti meglio di Marini. Ce ne sono tanti che meglio di Marini, addirittura Rodotà meglio di Marini. Non c'è persona più lontana da Renzi che Rodotà, ma ci deve essere qualcosa sotto. 800240024, lo chiediamo a Gianfranco Rotondi. Buonasera. Eccolo, buonasera, qua. Salve. Il nuovo in politica, benvenuto. Il nuovo in politica, è giovanissimo, signor Rotondi. No, un uomo nuovo nella politica italiana. Quanti di anni oggi? Rotondi? Io sono nato nel 1960. Cioè, da quanti anni stai? Sei anni più di me, capito? Ma da quanto tempo stai in Parlamento, però? In Parlamento non ci sono stato ininterrottamente, sono entrato nel 94, uscito nel 96, rientrato. Insomma, da 20 anni, 2000... da più di 20 anni. 13 anni ho fatto in Parlamento. Sì. Vabbè, insomma, però dai. Si considera un po' un homo, un homus novus. No, a differenza di molti che sono stati eletti oggi. In questa legislatura ho letto qualche libro, per esempio uno mi fa ah, Marini, hai detto che è l'erede di Donacattin, ma io sono giovane, non so chi è Donacattin. Ho detto perdonami, non sei giovane, sei ignorante, ti ma regalo un libro sono? Di storia. Quanti ce ne sono di questi ignoranti? Non lo so, ma il problema è che stiamo accreditando l'idea che nuovo significa rottura col passato, e che per rompere meglio non bisogna nemmeno conoscerlo il passato. Sono degli asini? Questo Parlamento, è un Parlamento di mezzi asini, diciamola tutta. Non mi permetto, ma come no? Il nuovismo è l'autostrada dell'ignoranza. Però voglio dire, soprattutto... cioè, quando uno è ignorante, taglia molte discussioni imbarazzanti dicendo sono nuovista. Io pure, che non sono un'enciclopedia, quando d'ora in poi mi fanno quelle domande impertinenti nelle trasmissioni a cui io non rispondo mai, consapevole della mia ignoranza, non dirò più che sono ignorante, dirò sono uno nuovo, tutto quello che è successo prima che sono nato. E quindi non è tutto, lo so, è tutto condonato, il nuovismo condona tutto. Poi in questo momento il primo degli ignoranti è Renzi? Renzi è un prodotto a me molto noto. E qual è? Cioè? È un ragazzotto dell'ultimo giovanile democristiano, di quelli che nelle sezioni cantavano gli è tutto da rifare, rottamiamo Forlani, via i vecchi, avanti i giovani. Gli si dava due o tre nel direttivo, se erano bravi andavano a fare gli assessori, bravissimi sindaci, lui è stato ancora più bravo ed è diventato presidente della provincia di Firenze. E poi? Poi è capitato in quella gabbia di matti che è il Partito Democratico, e siccome l'ultimo dei democristiani è più bravo del primo dei comunisti, se li è fatti si è scambiato la presidenza della provincia con le primarie del comune, ha vinto al comune con i voti di destra contro i sinistri che gli facevano i franchi tiratori. Poi si è buttato nella corsa su Bersani, ha detto da ragazzotto democristiano questi sono una manica di sprovveduti, io mi ci butto e vinco. Ha preso le carte in mano. Qual è il problema? Che il ragazzotto democristiano a un certo punto generalmente si ferma. E invece? Arriva in cima al colle e dice mamma dove sono arrivato, fammi fare bene il sindaco, mi sono giocato una partita nazionale. E invece punta a Palazzo Chigi? E invece purtroppo comincia a prendersi sul serio. Ma perché? Perché e allora è... il gran bidone. Ma non è bravo. Il gran bidone deve avere l'umiltà di non prendersi eccessivamente sul serio. Ma gli dà del bidone? Pippa, secondo lei, è un bidone, ma per governare un paese complesso come l'Italia, ma stiamo scherzando? Ci vuole una proiezione internazionale, una conoscenza dei problemi. Berlusconi, no? Berlusconi, immaginavo. Berlusconi, no, ci vuole Berlusconi. Per farmi star male. Ci vuole Berlusconi, come Berlusconi che abbia una consapevolezza degli affari con cui si misura, perché governare un paese, magari Verdini, non è mica una, magari un bel Verdini, no? Abbiamo avuto grandi premier. Io non credo che Renzi sarebbe un grande premier. Vabbè, la vogliamo dire tutta. È stato lui a la vogliamo dire Marini. Tutta. Diciamo tra Alfano e Renzi, penso, e non per partigianeria. Beh, no, perché non no. lo penso di tutti gli esponenti sì. del PDL, sì. ma penso che sia più bravo Alfano. Vabbè, intanto perché ha già governato l'Italia, ha già governato l'Italia, ha fatto i guardasigilli, scusate. Ma non è una notizia questa, lei è anche giornalista. Ma poi voglio dire una cosa, allora fatemi dire una cosa da giornalista. Oh, benissimo. Oggi, non ieri o tra un anno, oggi, tra Alfano e Renzi. Sì. Voi chi dite che è più bravo? Ma Renzi. Alfano, che ha preso un partito morto e sepolto, l'ha rilanciato nel gioco ed è l'arbitro della politica italiana, eccetera. Ma come Alfano? È stato Alfano Berlusconi. È il segretario vabbè, sì, però del partito. Ma no. è stato Berlusconi, ecco, è non ci fosse stato Berlusconi, senza Berlusconi non conta mettiamola nulla. Mettiamola così, è il numero due, come Renzi è il numero due di Bersani. Alfano ha fatto sponda col numero uno sì, ma e Renzi, ha rilanciato il suo partito. Ma, Renzi l'ha schiattato. Renzi l'ha schiattato. Renzi è arrivato laddove Alfano non è riuscito ad arrivare, cioè rottamare Renzi. Ma dove è arrivato? Ha rottamato Renzi il ha rottamato Bersani ha oggi. Rottamato su. Marini o D'Alema. Ma ha rottamato il Partito Democratico. Ma io la amo. Fatto un quattro. Ma io Rotondi la amo perché la amo. Perché ricambio, sostenere una... Posso baciarla? No, devo baciare Rotondi. Posso baciarla? Torniamo a Renzi. Posso baciarla? Posso baciarla? Grazie. Io sulla bocca posso perché però, no, la dire bocca, no. bocca è troppo perché va bene un bacio democristiano dire delle cose così Rotondi mi fa venire io ma non l'amo posso baciarla ancora perché sostiene, perché vuoi baciare Rotondi questa sera perché sì. uno che sostiene uno cosa? Che sostiene uno sta dicendo che Alfano è più bravo di Renzi non è che ha detto una cosa strana vieni qui tutto elegante col doppio petto sono come se fosse al Quirinale sono dicono che Alfano ma... no il doppio petto scusa me lo sono messo per una ragione scaramantica dico naturalmente io sono per Marini ma i democristiani si sa che hanno sempre una seconda scelta che è quella per cui si battono sì, la prima sono sempre loro esatto. per cui dico magari nella confusione generale mi vedono con questo doppio petto che mi scende bene in linea perfetta stupendo. Pronto per il Quirinale qualcuno dice perché non Rotondi. Vieni sei pronto non me l'hanno detto le e piace, io resto, le resto piace, per è me è strano che non l'abbiano candidato sarebbe in grado di fare Presidente della Repubblica? Veda fare il Presidente della Repubblica è molto più facile che governare l'Italia. Certo, vabbè, a me adesso... è capitato anche di governare l'Italia come insieme governare? A molti altri. Beh, ma fatto di ministro, governare ma sì, fatto il ministro, d'accordo. Ministro cioè, dunque lei sarebbe il in grado. Più sarebbe... facile è il capo dello Stato, il Presidente della Camera, cioè, il Presidente del Senato. Qualsiasi pirla può farlo. Qualsiasi, ma è un mestiere facile perché hanno la grazia anche di Stato. Anche un grillino hanno la grazia farlo. Di Stato. Voi avete fatto tutti praticando i giornalisti che si dicevano nelle redazioni. Voi potete contare le corna di tutti i ministri, nessuno vi dice nulla. Ricordatevi che il presidente della Camera, quando dice una cazzata, è sempre un alto monito. Il presidente del Senato, qualunque castroneria dice, è una solennità e al capo dello Stato si dà sempre ragione. Quindi se tu hai la fortuna è il mestiere di essere più facile del mondo. Presidente della Camera, del Senato, della Repubblica, stai a posto. Puoi dire quello che vuoi, sei uno statista. Beh, no, così che non, e questo non, vale non accade tutto. Proprio così. Qui ci vogliono gli applausi. Cossiga fece una scelta diversa. Cossiga sbroccò. A certo è stato punto. No. La pazzia di Cossiga è una invenzione dei cronisti. Sì. Beh, la verità è che Francesco Cossiga era un genio irripetibile della politica. Ma ci vorrebbe italiana. Adesso ci vorrebbe un Cossiga Presidente della Repubblica ci in questa vorrebbe, situazione? Ci voleva e lo rimpiangiamo tutti perché Cossiga illuminava con bagliori di assoluta lucidità la follia ma della politica e oggi italiana. Berlusconi sarebbe adatto a fare Presidente della Repubblica oggi. Cossiga sbroccò perché voleva denunciare che il sistema cadeva e che avesse ragione, lo dimostra dove ma siamo caduti. Ma Berlusconi oggi sarebbe in grado di fare Presidente della Repubblica? Berlusconi sarebbe un bravissimo Presidente della Repubblica, ma si annoierebbe. Perché? Che farebbe? Perché, immagini Berlusconi Presidente della Repubblica. È una giornata tipo. Chiuso nel Quirinale. Senza donne, peraltro, con tutti i corazzieri beh, maschi alti. Non sono impedite dal ruolo. Beh, per insomma, beh non oggi potrebbe. È felicemente c'è più controllo, fidanzato, c'è più controllo lì. Oggi è felicemente fidanzato. Diciamo, avrebbe anche una splendida first lady al beh, momento. Insomma, per cui voglio un po' dire, giovane. Un po' giovane, un po' troppo giovane. Con il cagnolino lì, cagnolino. Ma che si guarda il cagnolino da Obama? Torniamo su Berlusconi. Sono stati, cagnolini. I cani al Quirinale. No, cani in che senso? Sì, sono stati cagnolini, credo che ci siano stati presidenti sì, però, professori scusa, di... no, quali sono i cani che sono stati una first lady così no, col penso cane penso che ci sia stato qualche presidente che aveva il cane adesso non mi viene il nome ah non nel senso che era un cane come no, presidente no per carità io vorrei dire questo sì. Berlusconi sarebbe un grande presidente della Repubblica. Non c'è dubbio. Probabilmente sì. È condannato a tornare a fare il presidente del Consiglio per come sta condannato. Andando. Ah, beh, anche il paese è condannato, diciamo. Il paese è incinto di Berlusconi, sì, cioè, ma le doglie sono forti. Sì. Credo che a giugno sgraveremo. Sì. Ma lei si rende conto della irresponsabilità di quest'uomo che oggi che si perché doveva no, eleggere questo... presidente della ma Repubblica? Ma il numero uno, no. È a Udine. Doveva... È a Udine. No, no, no, no. Vergogna! È a Udine. Che doveva fare a Roma se votiamo scheda bianca? Ma se c'è un momento in cui ci devi essere irresponsabilità ma che dici? Assoluta, ma dai, calmati, no, calmati. Irresponsabile. Irresponsabile. Che doveva venire no, a fare? No, però doveva essere la mia là, al chiodo a lavorare. Io sono preoccupato perché conosco perché? Una signora che si chiama Bianca Scheda. Non vorrei che l'avessimo eletta capo dello Stato. La donna, dice, la famosa donna. Di nome Bianca Scheda. Ma nel giorno donna. Primo in cui si elegge Presidente della Repubblica zitto, non e Berlusconi va allora, la mia analisi il Presidente si può eleggere domani, coerentemente, perché è il tredicesimo. Ma lei ancora per Marini? Della diciassettesima legislatura lo leggiamo. Ma di lei ancora per Marini? Lei ancora per Marini? Certo che sarà Marini domani. Ma non è Marini, scusa. Dovrà essere è Marini. È stato scaricato da Berlusconi. Vuole scommettere stasera. Con noi 100 euro qui da mettere io sul tavolo? Io non scommetto più nulla perché abbiamo a che allora. Fare con dei matti. Figuriamoci se scommetto sui matti. Chi sono e i democratici qui, insomma, con quello una che banda di combinato. Matti, chi sono? Come li definisci? Una banda di matti per fargli un complimento, perché voglio dire... Quale, perché mai il paese sì. dovrebbe tornare ad affidarsi a gente che ha vinto le elezioni sì. ma non fa il governo perché gli fa schifo Berlusconi? No, ha perso le elezioni. Hanno vinto che... alla Camera, potevano fare il governo in un amen perché Berlusconi ha detto per amore dell'Italia vi do i voti e anche qualche ministro. Loro hanno detto no, non abbiamo i voti, però con te non governiamo perché perdiamo voti. Vogliamo andare con Grillo. Vedete voi che forma di statistiche per paura di perdere voti non salvano l'Italia che è il loro paese, perché di questo parliamo. E allora aspettiamo le elezioni, ne vedremo delle belle, perché noi come centrodestra le vinceremo, ma non ci chiameremo manco più centrodestra. E come ti chiamerete? È certo, perché Berlusconi monetizzerà al massimo sul piano elettorale la responsabilità che ha avuto dopo le elezioni dicendo noi siamo pronti a sostenere anche un governo di Bersani. Avete visto che abbiamo guadagnato 5 punti? Beh, allora che vuol dire? Scusi, significa che Berlusconi come vi chiamerete, si rimette la calzamaglia come nel 94, va in televisione, vi manda una cassetta e dice signori, ancora sono storia. Ancora io, eccoci qua, con me. Non c'è più solo il centrodestra italiano, 20 anni di storia civile, passa il cane da della Pascale. Da me organizzata, sostenuta, difesa, no? Ma che mai io ho che... avuto la capacità di dire a questa sinistra italiana che il paese nel tempo della crisi si governa nell'alleanza tra il ceto medio e la classe lavoratrice. Come si chiamerà? Tra il PDL e la sinistra. Mi hanno detto che il problema ero io. Il risultato è che torniamo al voto e nei sondaggi sono favorito io, quindi il problema diventa la soluzione. Allora, siccome io credo che sia importante un'alleanza politica con la sinistra, che lei facesse uso di droghe, visto però. Che serve un'alleanza politica con la sinistra e che il ceto politico della sinistra non è pronto a farla, io apro le mie liste, un terzo delle quali sono formate da donne e uomini della sinistra che non hanno problemi a fare un'alleanza con noi. Cioè, fa le liste con gente della sinistra. È una notizia oppure... Ma che è una previsione. Ma perché l'ha sentita dentro PDL? Non ho sentito nulla. Ma lei aveva vado per telepatia. Il 2 aprile, scorre le agenzie, c'era scritto che il candidato era Franco Marini. Esatto, quello volevo dire. Adesso, in questa data, io le prevedo che noi vinceremo le elezioni con una nuova coalizione che con non sarà il centrodestra, sarà l'arco nazionale. L'arco nazionale si chiamerà anche l'arco nazionale. Si chiamerà arco nazionale. Avrà la destra, il centro e la sinistra. Tutti dentro un'unica lista. Le donne, gli uomini di buona volontà, un'unica lista, che perfetto. Vorranno salvare questo paese nell'alleanza tra ceto medio e classe lavoratrice. Franco Marini nuovo presidente, l'hai scritto il 2 aprile, non perché candidato eccetera. Franco io Marini conto nuovo ancora che possa essere. Bisogna vedere. Certo, ci è andato vicino. Su questo bisogna riconoscere. Io conto ancora che possa farci. Ma lei sapeva, non sai che è uguale a Giorgio Mulet, il direttore di Panorama? No. Sì, un po' sì. Un Mulet è un po' più robusto. No, più è dimagrito molto sul Mulet, è vero? Sì, assomiglia un po'. Noi non ce l'ha presente il signor Mulet, direttore di Panorama? Non lo conosco. No, fisicamente. Non lo so presente, mi spiace. No. Le abbiamo fatto un complimento comunque, non è che l'abbiamo paragonata a Senta, ma l'imitazione che fa che fanno della Pascale com'è? A proposito di Berlusconi, a me non è piaciuto il fatto che ci si attacca sempre sull'accento napoletano. Beh, quella è napoletana. Mica si può fare la veneta. Ho avuto la sensazione di un qualche sottolineatura. Beh, di Napoli, con una però vaga venatura razzistica. Lei è stata molto allo scherzo e ha dimostrato, appunto, di essere persona di grande spirito. Ma e appunto, quindi, diciamo, in un certo senso le è tornata anche vantaggiosa dal punto di vista dell'immagine. Ma è una figura che sta aiutando il Berlusconi, secondo lei? C'è, cioè, una figura io importante che, in questo momento? Io penso che Berlusconi viene aiutato principalmente da Bersani. Quindi il più grande alleato di Berlusconi, sicuramente, Bersani. Tutto quello che Bersani ha fatto dalle elezioni in poi ci ha dato 5 punti. È il più grande alleato di Berlusconi. Allora ringrazio. Allora. Senta, allora, mi dica qualcosa su Romano Prodi, che sta uscendo fuori questa candidatura. Oddio, cioè, ha fatto una faccia terrificante. No, assolutamente. Voi non la potete vedere, ha fatto così, ha sgranato gli occhi. Io non ho nessuna antipatia per lo Romano. Voterebbe? Lo voterebbe? Non lo voterei, perché lo schema politico nel quale siamo calati ci colloca su trincee diverse, ma ho avuto sempre apprezzamento per il suo impegno politico e lo considero una Ma Berlusconi dice che bisogna scappare dall'Italia. Berlusconi ha fatto una battuta per dire che in un paese spaccato la cosa più dunque pericolosa... lei non scapperebbe, diciamo, lei non scapperebbe dall'Italia. E dove voglio andare? Non conosco le lingue. L'unico motivo per cui non mi hanno dato gli esteri, non mi fanno premier. Manco una lingua, manco una parola d'inglese. Sono napoletano, milanese, queste sono le mie lingue. Inglese, no, l'inglese manca una parola. A differenza degli altri politici che non sanno le lingue e fanno finta di saperle, ma fanno finta e ci fanno fare una manica di brutte figure, io sto al posto mio. Quindi non so una parola, lo dica chiaro, non so una parola d'inglese. Qualche parola la so, ma evito di profondermi in tentativi di farmi capire. Il mio nome è Gianfranco Rodondi, lo sa come mai si dice? Sì. Come? Io non ci casco. My name is Gianfranco Rotondi. Io quando viaggio all'estero parlo inglese, mi faccio capire, non mi, sì, mi riaccompagnano sempre all'albergo. Ma con senza questa problemi. Cadenza, con questa cadenza, con questa cadenza mi riaccompagnano sempre in albergo. Non ho problemi a farmi capire in inglese. Let's certamente non vi faccio fare una bella figura se ci vado come rappresentante dell'Italia. Infatti, ma insomma, Prodi è lo spauracchio delle prossime ore o no? Restiamo in Italia. Chiunque sia il capo dello Stato, questo è un grande paese nel quale vale la pena di vivere. Berlusconi e di ha detto una stupidaggine. Berlusconi non ha detto ha fatto quello che gli è stato attribuito. No, ha detto emigriamo, come dice, come uno può dire me ne scappo in paradiso, me ne scappo all'inferno. No, è come dire, è una frase, è una situazione gravissima, vado via, non mi sento tutelato. Ma da dove diceva se ne vuole andare se lui è condannato a tornare a Palazzo Chigi tra pochi mesi? Ma lei dice, sicuro, è così sicuro? Ma ne sono sicuro. È ma sicuro, questo nei suoi sogni probabilmente. Ma che sogni, per carità? Ma io ha una muta, io... ha una muta di processi, ha una muta di giudici che gli stanno alle spalle, che lo inseguono. C'ha la moglie che lo insegue anche con gli alimenti. Tutte sponsorizzazioni elettorali. Tu quelle là. E la signora Lario pure, che vuole un sacco di soldi? Questi sono affari suoi. Quella è una cosa io grave però. Penso all'Italia che sta senza governo perché ha spaccato il capello in tre, ha dato un terzo dei voti a Grillo, un terzo a Bersani, un terzo a Berlusconi e due... Pensi se sua moglie, pensi se sua moglie le chiedesse tutti quei soldi? A me puoi chiedere quello che vuole. No, ma per dire, uno sarebbe, come fa a non essere così depresso Berlusconi? Deve dare 100.000 euro al giorno alla signora Lario. Al giorno? Al 100.000 giorno, euro al giorno. Giorno. Lei sarebbe depresso. No, per 100.000 ovviamente non è possibile, però avendoceli. Sì, ma perché lui dice... Ah, quindi si accontenta. Io sì, penso si metta calmo, che insomma, in generale, non è il caso naturalmente del presidente Berlusconi, ma in generale, sì, io sono, diciamo, un democristiano laico, quindi favorevole al divorzio, anche all'aborto, al divorzio breve, perché quando due si vogliono divorzio lasciare, bravo, sì, non bravo è la religione che li mantiene, bravo, insieme, sì, però devo dire che il divorzio, l'istituzione del divorzio ha dato un grande contributo alla crisi economica dell'Italia, nel cioè? Senso che... E nel senso che già non si campa con uno stipendio una famiglia, figura di due. Cioè tante persone hanno uno stipendio escono, e devono hanno uno stipendio e devono pagare gli alimenti alla prima moglie, vivere con la seconda, cioè anche questo è un aspetto della crisi del nostro tempo. Ah, lei dice se non ci fosse il divorzio sarebbe meglio per le cose. No, voglio dire, bisogna pensarci bene. Ecco, prima si facevano i corsi prematrimoniali, no? Sì. Lei l'ha infatti fatto? Io no, non l'ho fatto, ma voglio dire, ci ho pensato abbastanza prima di sposarmi. Ma prima la Chiesa faceva il corso prematrimoniale e sì, generalmente valeva per tutti. Ora, in tanti non sono praticanti, in tanti sì, non sì vanno al corso, in tanti si sposano con una certa leggerezza. Secondo me ci vorrebbero i corsi prematrimoniali fatti anche dallo Stato. Fatti dallo Stato? No. Cioè, per spiegarti gli obblighi. Voglio dire, io credo comunque che meno... ci vorrebbe più consapevolezza meno divorzio nell'intraprendere il matrimonio, che è un impegno costitutivo. Vabbè, ho capito, però, di una comunità nuova che lei è la dice, famiglia. Lei dice se ci sono e se... sapere che poi in fondo al divorzio ci sta anche la povertà. Per in fondo al divorzio c'è la non è un discorso moralistico. Cioè il divorzio mio. Porta alla crisi economica. Non sto facendo una predica. Vabbè. Chi si fa una famiglia dovrebbe pensare che sta famiglia è meglio che dura tutta la vita. Scusi, per lo tanti, ragioni, però un'ultima cosa, tra siccome, cui anche questa. Siccome lei è stato uno di quelli che ha uno di quelli che ha previsto Marini, forse presidente il 2 aprile, anche se poi previsto, ma onestamente anche molto auspicato. Auspicato, beh, certo, assolutamente. Adesso ci faccia una previsione delle prossime ore. Però Marini ormai è out. E basta con questo Berlusconi a Palazzo Chigi. È out. Chi è dopo Marini? Chi c'è? C'è Marini per me, noi siamo persone serie. D'accordo. Senta, noi se Bersani. Ma votato da chi Marini? Facciamo, Rotondi, io scusi. Capisco che voi fate un bel mestiere, ma il guaio è che ve lo rubano. Cioè, perché senso? Il nemmeno con tutta la spregiudicatezza della zanzara voi potevate immaginare un capo di un partito di maggioranza che ha vinto le elezioni che dice Bersani. Italiani, eleggo Marini con Berlusconi poi dice adesso si deve prendere atto della nuova situazione politica e domani che ci dice? Eleggo Prodi contro Berlusconi e il vaffa perché glielo devi dire solo Grillo poi? No, ma guardi che questo è possibile perché il PD è talmente impazzito che è capito, possibile. Ma allora capite anche perché a giugno vince Berlusconi. Lei dice vabbè, comunque vada Berlusconi vince. Comunque va noi incassiamo e allora avanti così, basta, eleggano chi vogliono. Scusi un attimo, chi è che ha votato Siffredi oggi? Lei lo sa? Che si è confessato. Io. Chi ha votato Rocco Siffredi? Valeria Marini? Posso svelare, io ho votato io, ma chi voi arrabbiate, vi offendete. Conte Macetti. No, Sabelli Fioretti. Sabelli è stato lei. È stato uno e di quelli e con questa faccia poi viene qui da noi sì, vengo qui. Ma no, è un gioco, gliel'hanno detto. No, me l'hanno chiesto. Lei gliel'hanno chiesto. E allora ci prometta. Io applico un principio democristiano, sì. Bravo, bisogna dare il voto solo se uno te lo chiede, perché se no non ti ringrazio. Allora sveliamo. Allora, caro Sabelli Fioretti, hai chiamato Rotondi. Uno dei due me l'ha chiesto Giovanardi. Mi ha chiamato Giovanardi transatlantico. Dice senti, io voto Sabelli Fioretti, è simpatico, tu che dici? Beh, ma tu glielo dici. Allora sì, i due sono Giovanardi e Sabelli Fioretti. Vabbè, vergogna! Allora, scusi, la prossima vergogna, la prossima uomo chiama. Di sinistra, Sabelli Fioretti, che ha votato Sel, si è fatto votare da Giovanardi e vabbè, da Rotondi. Ma vergognati! Ma spontaneamente. No, ma la prossima chiama, scriva Cruciani e Parenzo. No, allora, ma chi se ne frega, la prossima chiama. No, amica, voglio copiare, che il nostro nome venga urlato nella stanza domani voto un grande clinico. Chi? Domani mattina. Chi Veronesi. Il professore Ermanno Leo. E chi cazzo è? Perché Ermanno Leo? Zanzare, il treve di montagna, in collina, in campagna e anche al mare. E siamo qui con Gianfranco Rotondi che prevede cosa? Apriamo questa. No, questo scenario. E voi continuate a votare Marini, però poi alla fine questi lo noi stanno abbiamo scaricando. Abbiamo preso un impegno. Questi faranno un presidente contro Berlusconi, questa è la realtà. Il PD si appresta a fare un presidente contro Berlusconi. È una gabbia di matti, perché ieri hanno fatto un accordo con Berlusconi per Marini e oggi cercano un accordo contro Berlusconi su un altro nome dello stesso partito. Ditemi voi. Vabbè, accertate con una gabbia di matti, voi di fronte a un presidente che so, Prodi, Rodotà o non so chi, che cosa fate? Continuate a votare Marini? Se Marini non ritira la candidatura, ma l'ha ritirata? No, non l'ha ritirata. No, lui non l'ha ritirata. Sta detto pensando che non l'ha ritirata. Se dà la disponibilità a mantenere la candidatura, noi continuiamo a votare. Ma un presidente come Rodotà sarebbe una sciagura per voi? Facciamo uno scenario. Marini domani mattina dice: sì. Mi avete chiesto la disponibilità. La mantengo. Allora? Alle 17 noi e chi del PD riterrà, voteremo per Marini. Benissimo. E d'accordo. Poi gli altri voteranno Rodotà. Ci sarà Rodotà un ballottaggio Marini-Rodotà. È una sciagura per Rodotà? Io per credo voi, nell'Italia non c'è nessun italiano che possa essere una sciagura per questo sono grande tutti paese. Grandi Grillo nomi. Dice quindi. Che è un uomo fuori dalla casta. Secondo lei è fuori dalla casta? Rodotà? Io non credo alla casta. Vabbè, quello la casta. La casta è una stupidaggine inventata. Da chi? Da Rizzo e Stella? No, la Rizzo e Stella hanno coniato un titolo brillante per un bel libro che io ho anche regalato. È veritiero, per un bel libro è anche veritiero. Innanzitutto è un libro, vale nel suo genere, che è quello dei libri. Della denuncia? Bene, cose gradevoli. Ma no, ma gradevole, cose terribili, non gradevoli, cose terribili. Molte cose erano già note, sono state messe insieme con una certa capacità letteraria. Quindi la cosa stupida è invece chi ha fatto dell'anticasta una linea politica. Cioè Grillo? No, nel paese l'anticasta ha radici molto più i giornali. i giornali che sono posseduti, è arrivato dopo. Fanno inchieste, in fanno primis inchieste i giornali. Abbiamo una quota di giornali che, dominati come solo in Italia accade, dagli interessi di alcuni editori. No, non mi dica che dietro c'è Montezemolo. No, detto, ma certo, non mi dica che c'è Montezemolo, c'è dietro Rizzo e Stella. Qualcuno... Non c'è no, dietro, c'è avanti. Lo ha detto dietro Rizzo e Stella sono solo Rizzo e Stella. Aspetta, lo ha detto, lasciamo, scorporiamo Rizzo e Stella, che con l'anticasta non c'entrano nulla. Lo ha detto di recente Mucchetti del Partito Democratico, che in realtà è un'operazione, quella là della casta, fatta per favore di lo schema, dell'anticasta è un altro. Se io sputtano l'eletto del popolo e dico che è un pezzaro che si fa eleggere per pagare il caffè poco alla Bovette, che cosa succede? Che il rappresentante del popolo non rappresenta più nulla, perché c'è il popolo contro che dice farabutto, io ti voto e allora? Tu ti vai a bere il caffè e mangi al ristorante con poco. Quando una rappresentanza popolare è sputtanata, conta chi c'ha i soldi, i giornali, i padroni e tratta diretta col governo, meno politica, più affari. Benissimo, e Montezemolo è quello che ha fatto... Montezemolo è il re di una Italia che nell'assenza di politica ha avuto un ruolo importante. Ma è Montezemolo è quello che voleva... Montezemolo ha pensato, se sbroccano e mi dipingono il Parlamento come una dunata di pezzari, arrivo io, gran signore, col ciuffo e dicono che bello, che bello. Beh, invece non gli hanno detto che bello, hanno votato Grillo. Ma non è andata così? No, hanno votato Grillo. Perché hanno capita così. Con i capelli ricci anziché con capita il ciuffo. Sempre così. Cioè tu inneschi un meccanismo che a un certo punto ti travolge. E vabbè, e questo è successo. È andata lei così. Dice Montezemolo è stato travato da Grillo, come tutto il Corriere della Sera. Va bene, grazie Gianfranco Rotondi. Grazie PDL, a voi. Va adesso? Dove va ora? Torno alla camera a guardare lo spettacolo che è assicurato e gratuito. E nel mio caso anche pagato. Si mangia anche bene lì, no? Come lo spettacolo? No, no, non ho mai mangiato alla camera e devo dire la verità, nemmeno preso il caffè alla Bovette. Una volta, poi da napoletano ho constatato che fa schifo. No, e come tutti i caffè, ma abbiamo, e non posso fare pubblicità, anche caffè napoletani a Roma, vado lì a prenderlo, no? Ah beh, certo, due passi, a Piazza un di euro. Pietra va lei, a Piazza di Pietra. Mi astengo dal fare pubblicità, ma se uno non si può consentire il lusso di pagarsi un caffè, fa schifo quello della camera. No, non fa schifo, è un banale caffè. Ed un banale caffè. Io trovo che il ristorante della camera e il bar della camera abbiano la brillantezza di una mensa aziendale. Ah, e siccome io ho una concezione seria tutto sommato del cibo, preferisco pagare qualcosina in più fuori. Cibo, mensa perché aziendale. È una mensa fiocca, diciamo la magari, ecco, il cibo è orrendo, diciamola tutta. No, però sai, mangiare con quelli con cui lavori è un poco deprimente. Se è necessario si fa. Poi adesso allora, tanti io grillini siccome, adesso, tanti grillini. Siccome, no, devo dire, i grillini a colpo d'occhio mi stanno simpatici, non sono stati un cattivo acquisto dal punto di vista dello spettacolo parlamentare, nel senso che mi sembra che sono ragazzi volenterosi che si applicano alle questioni, non ne do un giudizio cattivo. Beh, riuscirà a far passare qualcuno con voi, non so, e a che comprarlo, bisogno c'è? E che... fare un po' di mercimonio di voi, qualcosa così, insomma, no? Ma comprare, non abbiamo interessi, il governo lo deve fare Bersani, magari al prossimo giro. Non abbiamo interessi. Magari la prossima legislatura grazie ci applichiamo. Rotondi, grazie. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. E siamo qui, andiamo. Marco da Bergamo, buonasera Marco. Posso parlare anch'io? Vada, vada. Vedo che siete in cerca degli elettori burloni, però visto che siamo in un paese di smemorati, volevo ricordare che abbiamo anche un candidato burlone, perché Prodi è un grande burlone. In che senso? Dobbiamo ricordarci che è riuscito a sostenere davanti alla commissione d'inchiesta sul rapimento di Moro che il nome di Via Gradoli gliel'aveva detto, non si sa chi, attraverso un tavolino a tre gambe. Ma l'abbiamo già detto. Ah, scusa. Allora, io dico, insomma, non mi sembra che un tale burlone sia un po' un individuo capace di condensare su di sé una scelta di discontinuità di un sistema che ormai è evidentemente in decomposizione, per cui per carità del cielo, Prodi proprio no. Prodi proprio io non capisco questo attacco concentrico di ma non è un attacco Prodi, è una persona che divide da una parte Prodi dalla ma bisogna valutare se è una persona che non ci ha detto la verità su un periodo veramente spaventoso che il nostro paese ha vissuto. Allora, di ritrovarmelo a rappresentare l'unità del paese, francamente no. Vabbè, grazie. Carlo da Bologna, grazie. Buonasera. Sì, buonasera. Dica. Rotondi va alla Camera a sentire il nuovo spettacolo che era Staccata, che poi è andato in onda oggi, dove ci sono due polli, Bersani e il suo ragioniere Fassina, che si è appena diplomato in ragioneria. Ma dov'è? È una caverna. Che è Marini. Tutto orchestrato da Berlusconi. Dove vuole arrivare Berlusconi? Berlusconi vuole arrivare a avere il Presidente della Repubblica D'Alema. Berlusconi è riuscito a spaccare il PD, a far cacciare via a pedate, succederà fra pochi giorni, Bersani. E quando andrà alle elezioni prenderà il 40%. Ma chi? Berlusconi. Ma questo che prenderà il 40% non lo so, adesso nei sondaggi al 32-33, adesso sono spuntati tutti fuori di nuovo quelli che, sì, cioè quelli grandi sostenitori di Berlusconi. Caro, non ho capito, in questo momento certamente Berlusconi ha una strategia vincente, sale nei sondaggi, stava per fare eleggere un presidente sostanzialmente che sostanzialmente ha scelto lui, però aspettiamo, vediamo. Non me molesta il moschito, non me molesta il moschito. Non mi molesta il moschito, why don't you go home? Non mi molesta il moschito. Siamo qui con Ivan da Torino. Ivan, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Sì, vada. Allora, che c'è da dire? Intanto vi siete fatti prendere per il culo da da qualcuno che vi ha chiamato. Cioè? Chi? Caspita, ne hanno votati tre, uno fa film porno, vi ha chiamato direttamente lui, vi ha gabbato. Non ho capito un cazzo, scusi. Vi ha gabbato davvero tanto. Ma chi c'ha gabbato? Rocco Siffredi, dai. E allora? Che ha parlato di Ilaria... Scusa, ma io ho un ritorno, un eco, eh. Ma da chi ci siamo fatti prendere in giro? Non ho capito bene. Ha un eco nella testa, però. Freddy. Ma perché ci siamo fatti prendere in giro da Rocco Siffredi, scusi? Perché vi ha chiamato lui, non me ne siete neanche accorti. Ma quando? Prima. Ma prima quando? Ah, lui dice che un ascoltatore aveva la voce simile a quella di Rocco Siffredi. No, era lui. Ma mi pare una follia assoluta. Proviamo a chiamarlo, può essere anche, adesso proviamo a chiamarlo. Ma non credo che fosse Rocco Siffredi, guarda, ci sarebbe... Ma sei sicuro? Ma sono abbastanza sicuro. Come si chiamava l'ascoltatore che, al quale lei attribuisce l'identità di Rocco Siffredi? Guarda, non mi ricordo, era quello che ha fatto comunque l'osservazione su Veronica Lario. Io non lo so, ma non mi risulta. Non mi risulta. Oh, adesso facciamo una controllatina. Non mi sembrava Rocco Siffredi, cioè, francamente non mi sembrava lui. Comunque, guarda, se io prendo la responsabile delle badanti peruviane, sì? Secondo me può fare. È sparito, dove è andato? Dove è andato? Pronto? Piercarlo dalla provincia di Verona. Piercarlo, provincia di Verona, dica, sì. Sì, buonasera. Allora, no, io volevo dire che c'è un'aria che se eleggono Marini, mi sa che si va in piazza oltranza come in Egitto finché non si dimette. Ma chi va in piazza, scusi? Come? Ma chi va in piazza oltranza? Ma non è un circo Barnum questo? Le persone che hanno votato PD. Ma scusi, lei ha votato PD? Sì. E va in piazza protestare contro uno di quelli che ha fondato il Partito Democratico? Siamo alla follia, siamo. No, chiaro, guardi che le cose sono un po' cambiate poi nel frattempo, c'è un'altra aria, c'è voglia di cambiare. Ma saranno cambiate, ma Marini è uno del Partito Democratico. Cioè, non ha capito ancora, è uno del PD, sì, a lei non piace e addirittura lei può anche non piacere, ma perché dovrebbe scendere in piazza? Perché una parte di persone che ha voglia di aria nuova, che aveva votato per il cambiamento, si ritrova a votare col PDL e non gli va. Ma quale cambiamento? Ma qui stiamo parlando del Presidente della Repubblica. Non stiamo parlando della Repubblica. È da considerare questa cosa. È uno dei motivi per l'atteggiamento di Percaro dalla provincia di Verona. È uno dei motivi per cui il Partito Democratico alla fine ha cassato la candidatura di Marini, diciamola tutta. Cioè l'atteggiamento di Percaro che poi è stato portato in aula da alcuni che non hanno votato Marini. Per cui bisogna anche rispettare questo ascoltatore qua. Perché dice: io sono del PD, me ne sbatto le palle del fatto che Marini sia un fondatore del PD. Non è quello che mi aspetta. Visto una protesta contro le elezioni. Percaro, lei chi vorrebbe? vorrebbe lei? Io dicevo intanto pacificamente, ovviamente, pacificamente, però sa, approfittando del ponte si può stare in piazza qualche giorno. Poi volevo dire questo, che come si dice, il discorso riguarda anche il poco spessore della persona che nel frattempo, negli anni, insomma, si è un po' persa via. Magari il miglior Marini l'abbiamo già avuto, adesso sembra un po' una scelta di ripiego per tutti. Non lo so, non mi sembra di respirare nell'aria che la gente impazzisce per Marini, anche quelli del PDL. Ho capito, ma chi è che impazziva per Napolitano? Chi è che impazziva per Scalfaro? Chi è che impazziva per Ciampi? Su, forse Ciampi era un po' più popolare. Perché si partiva con qualche numero in più, dai, si partiva con qualche numero in più. A me questa cosa che l'aria è cambiata, bisogna eleggere un presidente diverso perché oggi c'è un clima diverso. E poi uno non sa dire chi. I tuoi amici, ma chi, i tuoi amici che lì hanno innescato tutto questo meccanismo. Quali amici? Quirinaria, una roba patetica. C'è il traffico, torniamo tra un attimo, traffico. Strade in diretta. Buonasera, resta intenso il traffico sulla rete autostradale, in particolare attorno alle grandi città, in uscita da Milano code di 2 km per lavori sulla 8 Milano Varese alla barriera di Milano Nord. Per un incidente code sulla 3 Napoli-Salerno verso Salerno tra San Giorgio a Cremano e Portici e Ercolano. Ci spostiamo sul tratto appenninico dell'Autosole e si incontrano code verso Bologna per un veicolo fermo tra Barberino di Mugello e Ronco Bilaccio. Sul raccordo Bettolle-Perugia code per un autobus fermo a Perugia Est in direzione di Perugia, per lavori traffico a rilento sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in direzione di Firenze. Infine disagi a Torino per uno sciopero regionale del trasporto pubblico fino a fine giornata. Ed è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. Le capitali del nord conquistano con la loro capacità di unire tecnologia e natura, modernità e cultura. E le crociere Costa in Nord Europa da 40 anni conducono nel cuore delle più belle città europee. San Pietroburgo, Stoccolma, Helsinki, Tallinn, Berlino, Copenaghen. Ogni giorno una capitale diversa raggiunta dalla prospettiva unica del mare. Una crociera in Nord Europa a bordo di Costa Luminosa e Costa Fortuna è una vacanza estiva fuori dall'ordinario, tra paesaggi e architetture indimenticabili e tra i comfort di cabine con balcone, ambienti eleganti, divertimento e spa affacciate sul mare. Imbarco a Copenaghen con comodi voli da tante città italiane. Dettagli su costacrociere.it e in agenzia di viaggi. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo via, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist, la zanzara ti... Siamo con Andrea da Cagliari. Andrea, buonasera. Ciao, io ho una proposta per il Presidente della Repubblica. Eccone un'altra. Volevo un nome di unità nazionale. E perché è un nome anche che ci rappresenti, che abbia un'indubbia reputazione internazionale. Raffaella Carrà. Secondo me è l'unica che riesce a rappresentarci in ogni consesso internazionale, che riuscirà a affrontare la Merkel la testa alta, sì, che riuscirà, ma perché non Ether Parisi? Parisi, secondo me Raffaella è una bandiera. Raffaella Carrà, Raffaella, una bandiera. Vabbè, ecco, e il Quirinale si trasforma immediatamente in disco music, i corazzini che ballano. Ecco, guarda, Raffaella, quella è la cosa più incredibile. Questo ha portato il grillismo, hai capito? Ma che c'è? Mica vogliono Raffaella Carrà. No, ma è uguale, dai. Il grillismo ha portato a questo metodo qua. Ma non faccio il cretino, non faccio il cretino. Non mi sposto un po' più là. Sono un cuore vagabondo che di regole non ne ha. La mia vita è una roulette, i miei numeri tu li sai. Il mio corpo è una moquette dove tu ti addormenterai. Ma girando la mia terra io mi sono convinta che... Ma sì, chi se ne frega. Antonio dalla provincia di Enna, buonasera. Quirinarie, buonasera, buonasera. Dica. Dica. Pronto? Antonio, sì, dica. Dico, ascolto, ma quanto è mediocre questo paese, perché ci lamentiamo della politica, ma la politica è un sottoinsieme della società, peraltro selezionato. Cioè, se questa è la politica, figuriamoci come sta messa la società, insomma. La realtà dei fatti è questa. Non ho capito, lei a che cosa si riferisce? Ma guardi, io mi riferisco al fatto che la stragrande maggioranza, a parte il fatto che ormai c'è un qiunquismo, chiunque può fare politica, chiunque può fare, il chiunquismo è stato coniato da Gramellini qualche giorno fa. Chiunquismo è un termine, cioè, azzeccatissimo. E allora? Esatto, questa è la ragione, è vero. Chiunque può fare qualunque cosa. Questa qua è una situazione pazzesca. Bravo. Per cui, cioè, tutti possiamo fare gli allenatori della squadra di calcio, possiamo fare politica, possiamo scrivere sui giornali, pazzesco, cioè, ma un minimo di selezione facciamo, altrimenti veramente questo paese va dritto verso ringrazi la Beppe Grillo e Casaleggio. Sì, vero, ringrazi Grillo e Casaleggio e anche Cruciani direttamente. E anche Cruciani. Va bene, Marino, ci siamo ridotti a questo livello Marino, basso dica. Proprio. Buonasera. Buonasera. Sì, abbassi la radio. Aspetti. Sì, con calma, dove ce con calma, non si preoccupi. Senta, io avrei un'idea che mi si è formata nella mente, sì, osservando tutto questo marasma di e casini, diciamo, all'italiano. Dunque, praticamente bisogna risalire a qualche giorno indietro. Noi abbiamo avuto un hacker che ha fatto ritardare di 4-5 giorni le quirinarie del 5 Stelle. E allora? Questa situazione che cosa ha provocato? Ma che ne so, che ha provocato? Praticamente lì. Ha dimostrato che quella roba lì è una puttanata. No, ma io non discuto la qualità o meno, però ha fatto sì che i nomi del 5 Stelle venissero fuori a ridosso delle elezioni del Quirinale e praticamente non c'è stato nessun tempo possibile di accordo prima. Poi il PD che è lento nelle sue cose. E che cos'è stato? Quindi chi è quasi un complotto? Cos'è stato? Un complotto? Probabilmente sì, io lo penso perché non si spiega diversamente. Ascolti bene, perché ma un complotto di chi? Ma può essere. Di chi? È verosimile? È verosimile, ma perché dai. Ritardare ma dai, la formazione ma di un nome dal 5. Lei ma non pensa che ci siano degli strateghi che muovono i fili? Ma sì, i strateghi di Washington, ma dietro. Ma ci pensi bene, che non ci siamo potuti mettere d'accordo tra il PD e il 5 Stelle, perché probabilmente se c'erano 5-6 giorni in cui già c'erano fuori i nomi e già si era segnalato qualcuno, può darsi che avrebbero avuto il tempo e tutta la sapendo che del PD comunque ci sono correnti. E chi avrebbe ordinato questo complotto? Chi sarebbe a capo? Chi vincerà le prossime elezioni e capisce chi ha ordinato questo complotto? Cioè Berlusconi. Da questa piccola cosa. A me quello che mi fa. Ma lei è malato, Marino, lei è malato di niente. Su. Bastano poche menti per rovinare gli accordi. Lei è malato, su. Cioè, Berlusconi malato, ha ordinato a un hacker quello, di attaccare. Ha il microchip, lei, dai, su. Ha il microchip sotto pelle, dai. Vero? Lei pensa che ci sia il microchip sotto pelle che ci mettono gli Stati Uniti? No? Sì, no, il microchip sotto pelle o no? La supercazzola prematurata a destra. Luisa dall'Aquila, buonasera. E buonasera. Dica. Allora, senta, io volevo intervenire in merito alle affermazioni, peraltro che Parenzo continua a ribadire anche adesso, tacciando quello che dice la gente comune di grillismo, peraltro imputando questo problema, secondo lui, anche a lei. E non ho capito volevo niente, dire scusi, che secondo me Parenzo continua a sbagliare come tutta la sinistra nel sottovalutare il Movimento 5 Stelle. Prima cosa, lui trascura che è la Costituzione italiana che consente a qualunque cittadino italiano che non necessariamente debba essere in politica di essere eletto. Io detesto il qualunquismo del Movimento 5 Stelle. Quindi non vedo perché debba essere tacciato di qualunquismo grillismo. Perché reputo una buffonata il fatto che chiunque possa decidere, presidente, una buffonata falsamente popolare, falsamente democratica soprattutto. È una buffonata. Vi prendono in giro, se vi piace farvi prendere per il naso, per cui mette in rete dei nomi. Dei nomi nella rete, ma chiunque può andare al Quirinale. Non è vero che è così, non è che chiunque. In Germania lo fanno. Vabbè, comunque, in ogni caso hanno votato, hanno scelto Rodotà. Questa è la sostanza. Adesso Quirinale o non Quirinale, votano Rodotà. Questo è il punto. Il metodo è una buffonata. Hanno scelto il signor Rodotà. Pare che nelle primarie che faranno domani alle 8:30 di mattina i deputati, i senatori e tutti i rappresentanti che votano per il Quirinale del Partito Democratico, però il nome di Rodotà non ci sia, che è una cosa incredibile. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Oh, ma tu lo sai che un grillino che è stato anche candidato al Senato in Sardegna, Francesco Perra, ha querelato Crozza? No, e perché? Ma lo sai perché l'ha querelato? Per questa roba qua di Crozza. Ora vi faccio vedere questo signore qua, questo Francesco Perra, candidato in Sardegna del Movimento 5 Stelle. Sentite cosa dice sui matrimoni gay. Vai, il problema è perché il matrimonio, perfetto, cioè essendo un'istituzione che ha sempre riguardato l'uomo e la donna, sì, come fai a farlo, a istituirlo anche per persone dello stesso sesso? Allora siamo nel terzo millennio, allora sì, cambiamo anche il concetto del matrimonio, e ma cioè, allora a quel punto possiamo anche sposarci in tre, potremmo anche sposarci con il nostro animale, perché ci sono persone che hanno un rapporto affettivo con i propri animali, molto forte, è vero. Molto forte, è vero. Ma cosa cazzo? Ma ce lo vedete questo signore qua andare a parlare con Orlando o Obama sui... Oh, non ho capito, cosa che dice, monsieur? Il là, sì, ma no, bibi, Grillo, se trove. E l'hanno rapito gli alieni, se abbiamo questo qui. Sai che io forse ho capito perché Grillo gli dice di non andare in televisione. No, ora voglio dire, Beppe, va bene sceglierli dal basso, ma qua hanno trivellato tanto. Le gambe sulle braccia, poi mi punge pure in faccia, sotto i piedi. Perra, ma perché hai querelato Crozza? Su. Ah, in linea? Uso improprio di cittadino comune. Come? È uguale però. Uso improprio di cittadino comune. Uso improprio di cittadino comune. Che vuol dire? Comune? Burocratese. Vabbè, che vuol ma dire? Eri candidato, ha fatto la parodia di quello che hai detto. È ironia, satira, anzi. È tutto. Era un intervento in una trasmissione culturale ed è stato estrapolato un discorso conseguente al riconoscimento dei diritti a tutte le cose. Ma è la satira questa, amico mio, io veramente vi voglio cittadino, non posso neanche chiamarti deputato, devo chiamarti cittadino. Certo, anche perché cittadino, ma capito, ascoltami, cittadino eletto in Parlamento, è satira, ridi. C'è un comico che è il capo del tuo partito, ridi. Cioè, perché quereli Crozza quando c'è un comico capo del tuo partito? Ma scusa, mi mandi ai matti. Dai, su. Mi mandi ai matti. Sì, ma c'è un piccolo problema, è che io non sono un personaggio pubblico, non c'entravo niente in quel contesto. Sì. E c'ho due figli e non mi va di passare per lo scemo del villaggio senza che io mi sia esposto. Ma come senza che te eri, ma eri candidato? No? Sì, sei candidato. Ma cosa c'entra? Ma quell'intervento risale a giugno. Ma non c'entra niente, eri candidato. Eri candidato. Eri candidato ed è satira quella. Ma e si fa parte del gioco. Fa parte del gioco, ti candidi, avevi detto delle cose, quello fa satira, è un gioco. Se si fosse così informato, Crozza avrebbe saputo che io non partecipo a questo gioco perché sono stato l'unico candidato alle parlamentarie che ha richiesto un voto, che ha presentato un non curriculum, che non aveva nessuna intenzione di entrare in Parlamento da nominato. Ma cos'è il non curriculum? Rifiutarsi di mettere un proprio curriculum per essere giudicati. Ma sarà mica roba intelligente? Cos'è il non? Come il non statuto? Cos'è sta roba che avete inventato? Il non statuto, il non curriculum? Quello che la non radio, questa è la realtà, non intervista, la non satira. Ma che roba, io non capisco più niente, no, veramente. Perra, quanti soldi vuoi da Crozza? Bambini alle medie. Vabbè, ma ho capito, ma mica ti ha detto che allora sei un criminale. Ma ho capito, non puoi parlare così. Ma una si può prendere in giro Berlusconi, però scusami. Si può prendere in giro, però privacy dov'è? Ma quale privacy? Il capo del tuo partito ogni giorno prende in giro, insulta e sbeffeggia qualsiasi membro del Parlamento. E ora, siccome ti prendono in giro a te, che sei pure candidato, non si può fare. Prima di tutto, non è che hanno preso in giro me, hanno preso in giro anche la mia sardità. Ma c'entra questo? Ma quello hanno preso in giro. Lo fanno dai coi leghisti. Ogni giorno Crozza prende in giro il povero Umberto Bossi e non si è mai sognato di querelare. E tu? E tu, cittadino? Pubblici. Un attimo, abbiamo la pubblicità. Torniamo subito, caro Francesco Perra, candidato, è stato candidato al Senato del Movimento 5 Stelle. Grillino di Ferro, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle in Sardegna, che ha querelato Crozza, un partito fondato da un comico che querela il signor Crozza. Mi sembra una follia. Tanto siete finiti voi, finiti! Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, è la zanzara dispettosa, fa zazza, zazza, zazza, zazza, zazza. Essendo un'istituzione che ha sempre riguardato l'uomo e la donna, Come fai a farlo, a istituirlo anche per persone dello stesso sesso? Allora, siamo nel terzo millennio, allora cambiamo anche il concetto del matrimonio, ma allora a quel punto possiamo anche sposarci in tre, potremmo anche sposarci col nostro animale, perché ci sono persone che hanno un rapporto affettivo con i propri animali molto forte, è vero, allora anche loro potrebbero sposarsi. Ad occhi chiusi stringo il mio orsetto. Vabbè, insomma, caro Perra, ti sei augurato, avevi fatto un paragone assurdo tra il matrimonio gay e il matrimonio degli animali. Veramente era un paradosso. Ma era Crozza o era lei questo? No, era Perra. Era no, Perra. Questo era Crozza, dai. No, no, era Perra, era Perra. Cioè, Francesco, era Francesco Crozza, Perra, dai. Candidato si al... capiva talmente bene che era un paradosso che nessuno ha avuto niente a ridire durante la trasmissione. Vabbè, è un paradosso, però hai paragonato sostanzialmente il matrimonio omosessuale al matrimonio tra... Ma no, se no si sarebbero offesi. Era una trasmissione sul gay tra... Cagliari. Allora? E io sono intervenuto parlando del gay pride senza avere niente da ridire se non un'eccessiva ostentazione. Vabbè, anche tu sei uno di quelli, anche tu sei uno di quelli che pensa che il matrimonio tra gli omosessuali è come il matrimonio tra due animali, su dai, anche tu. No, assolutamente, ma cosa due animali? Si parlava di riconoscere i rapporti affettivi. Ma detto questo, che uno scherzi. Il problema è che un animale sia erede testamentario di quello che ho detto io, ed è una realtà. Però scusami, hai accostato il matrimonio tra omosessuali, il matrimonio, non i diritti, hai accostato il matrimonio omosessuale all'accoppiamento tra gli animali e cose del genere. Hai accostato anche in un paradosso. Beccati la satira di Crozza e basta. Il matrimonio tradizionale, ho premesso, il matrimonio tradizionale era il soggetto principale, sempre avvenuto tra uomo e donna. Vabbè, Perra, il punto è che beccati la satira di Crozza. Risentiamo la cosa di Crozza, dai, così risentiamo quella di Crozza e via. Sì, ma è come? Aspetta. Ora vi faccio vedere questo signore qua, questo Francesco Perra, candidato in Sardegna del Movimento 5 Stelle. Sentite cosa dice sui matrimoni gay. Vai, il problema è perché il matrimonio, cioè, essendo un'istituzione che ha sempre riguardato l'uomo e la donna. Sì. Come fai a farlo, a istituirlo anche per persone dello stesso sesso? Allora, siamo nel terzo millennio, allora cambiamo anche il concetto del matrimonio. A quel punto possiamo anche sposarci in tre, potremmo anche sposarci con il nostro animale, perché ci sono persone che hanno un rapporto affettivo con i propri animali molto forte, è vero. Molto forte, è vero. Ma cosa cazzo? Ce lo vedete questo signore qua andare a parlare con Orlando o Obama sui... Oh, ne capra compris, hein, qu'est-ce que dit là, monsieur? Il E l'hanno rapito gli alieni, se abbiamo questo qui. Sai che io forse ho capito perché Grillo gli dice di non andare in televisione. No, ora voglio dire, Beppe, va bene sceglierli dal basso, ma qua hanno tribellato tanto. Vabbè, quanti soldi vuole la Crozza? No, non è una questione di soldi, è una questione di principio. Ma quanto ha chiesto, però? Io evidentemente sono talmente profondo che hanno dovuto trivellare molto. Troppo profondo che per Crozza. Ma a lei le piace... Per prendere un paradosso, per etichettare una persona. Ma lei le piace, a lei le piace Rodotà presidente? Ma anche se io preferivo Imposimato, mi andrebbe bene anche Rodotà. È simile, anche se secondo me Imposimato era molto superiore. Il giudice Imposimato è stato un po' snobbato, stranamente, dai media. L'hanno trattato come nessuno, un po' come fanno con i cittadini. Il giudice perché con tutto quello che ha fatto nella sua vita, Imposimato, anche a livello internazionale, di lotta a tutti i poteri forti. Ma Imposimato è un vecchio signore che pensa che ci siano i complotti in tutti gli affari dell'umanità. Su, dai, no, Francesco. Ho solo denunciato la questione del Bilderberg, e non è solo, è una parte, è molto più in rete di Rodotà, senza dubbio. Infatti, Rodotà l'avrei visto come ministro alle pari opportunità. Ma sì, ma perché no? Caselli all'interno. Moira Orfei agli esteri. Ma sì, tanto. La Bonino agli esteri. Vabbè, vai. Grazie. Ciao Francesco. Ciao, ciao. Mi raccomando. Andrea da Bologna, buonasera Andrea. Chieti, pronto, buonasera, ciao. Un intervento velocissimo. Cioè, io oggi ho avuto l'ennesima prova della distanza della politica e dei politici dalla pancia, dal sentimento del paese. Intervistato in televisione oggi Amato Marini, alla vigilia di una sua possibile elezione a Presidente della Repubblica. Questo sì. Ha pensato bene di esprimere come massimo momento della sua gioia mattutina, non sì. Il caffè o la sigarettina dopo il caffè, ma la telefonata di De Mita. Cioè, mi ha chiamato De Mita, sono stato molto contento. Ho capito, ma quella è la sua cultura. Ma questa è bellissimo, la telefonata di De Mita. Ma ognuno ha le sue fissazioni. Ho capito, è vero che è intervistato. La domanda è stata questa: chi l'ha chiamata oggi? Ho ricevuto la telefonata di De Mita che mi ha fatto molto piacere, ho capito, come il giorno del tuo compleanno, chi è che ti ha chiamato? Mi ha chiamato Pazzani, diceva vabbè, allora guarda che frequentazioni che hai, cioè questo l'ha chiamato De Mita. Non è che è un criminale, voglio dire, non è un criminale assassino. Adesso non lo so, però è poi è stato onesto almeno Marini, ma è chiaro che è tutta una roba impolverata, è chiaro che c'è polvere, c'è molta polvere e va tutto spolverato, però ho capito, però è stato sincero Marini. Ma no, io non discuto la sincerità, discuto proprio quanto è la distanza dal sentimento del paese, la distanza da quello che la gente prova destra, sinistra. Un attimo. Pronto? Pronto, buonasera. Sera. Casa Marini? Sì. Cerchiamo il signor Franco. Non è quel Marini che cerca lei. Ah, mi scusi. No, ma noi vogliamo proprio quello invece. No, vogliamo il signor Franco. Franco Marini vogliamo. Sì, Franco Marini. Sì, però non è questa la casa. Ah, appunto, mi scusi. No, ma c'è un Franco Marini che sta lì? No. Ah. No. È un Fabrizio, un parente? È un Fabrizio, sì. Ma è parente del signor Franco? No. E quello... chi è parente del signor Franco là? Come si chiama? Ma guardi, io queste cose non gliele posso dire. No, che c'entra? Mica è il segreto di Fatima. Mica è il segreto dell'umanità. Non posso dire un nome. Ma voi siete imparentati col signor Franco Marini, che potrebbe diventare Presidente della Repubblica? Beh, ormai non ha troppe chance. Però potrebbe, ho detto sì, siete imparentati? No. Ah, voi no. Ma no. Chi è il parente lì? Come si chiama? Il nome, giusto per capire. Il nome di battesimo del parente stretto del signor Marini. Franco, ma io non so se posso fare un certo nome. Che può. Vabbè, ma mica è un segreto. Libertà, paese libero. Ma no, guardi, io adesso mi coglie impreparata e non so se fa. Però lei lo conosce, diciamo, conosce un parente stretto di Marini che sta là. Cioè il fratello, dice lei. Fratello, certo. No, fratello no, assolutamente. No. Non c'è il fratello. E chi è allora? No. Un nipote? Non posso dire, guarda. Gustavo, come si chiama? Gustavo, signor Gustavo. No. Ma non ce lo può dire, ma mica ci sta svelando l'oro di Dongo, però. Non ce lo vuole dire. È un mistero dell'oro di Dongo. Sto parlando. No, signor Cruciani, Radio 24, signor Cruciani. Parenzo, Radio 24. Guardi, adesso io non le posso dire niente. Vabbè, mi spiace, ma per carità. Avete messo il segreto di Stato. San Pio alle Camere, com'è che si chiama il paese? San Pio delle Camere. È una cosa meravigliosa, provincia dell'Aquila, poche anime, no? Quanti abitanti? Certo, sarebbe stato bello un Marini Presidente della Repubblica, lei che si chiama Marini, no? O suo marito. Beh, anche qualche vantaggio ci sarebbe, no? Quando va alle poste, dice chi è? Marini. Marini. No, vabbè, sarebbe stata una grande cosa per il paese, no? Questo non c'è dubbio. Beh, certo. Vabbè, signora, grazie. Grazie mille. Prego. Grazie. Tutto bene? Buona serata, sì. Grazie. Buonasera. Vabbè. Luciano da Roma, buonasera. Luciano? Maurizio da Venezia. Eccomi qua. Allora. Buonasera a tutti. Allora, viva Marini e speriamo che diventi Presidente della Repubblica. Perché? Perché è un grande personaggio, nonostante io non sia di sinistra, questo è da precisare. Sì. Seconda cosa, siccome non se ne può più di questa politica schifosa di merda che c'è in giro, io dico viva Rocco Siffredi come presidente e Valeria Marina come presidente del Consiglio. Vabbè, così vadino a fare un bel giretto dalla signora Merkel con Rocco Siffredi, sicuramente si intenderanno alla grande. Domani i votanti del PD sceglieranno Siffredi, insomma, è una delle cose sul tavolo, sì, caro. Questo erotomane. Erotomane che vabbè, lì, Alberto da Bologna, su. Salve, io volevo solamente dire che dopo tutto quello che abbiamo visto a livello politico, lo spettacolo di ieri sera a Caprani, che è quello di oggi in aula, con le prime due votazioni, veramente per uno che sta tornando a casa a quest'ora da lavorare ed è partito alle 6 di mattina, è un po' una gran offesa, ecco. però insomma va bene così. Ma perché offese? In fin dei conti è passato un giorno. Anche perché sennò lì, scusi un attimo, anche perché sennò alla Zanzara di cosa parlate? Ma no, a parte no, questo, ma è passato un giorno, adesso domani vedremo la situazione, ma non è che con in questa situazione ci fosse l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, sarebbe una cosa. Siccome il Presidente della Repubblica è eletto, ma guardi che negli anni passati ci hanno messo anche 10 giorni, 15 Scalfaro, votazioni, 14 figurati. Votazioni. Per Scalfaro ci fu bisogno di una bomba della mafia per far eleggere. Damiano da Bologna, buonasera Damiano. Buonasera, volevo lanciare una proposta, ridateci Andreotti. Ma Andreotti purtroppo sta male, era lì oggi. Non so che sta male, ma ridateci Andreotti, lo farà per qualche giorno. In senso metaforico. Non è che così. Sono messi meglio, ci pare che l'età è quella, Beh, so. Insomma. Ma insomma, l'età è quella di chi? L'età è quella di Marini. I cloni. Ma come? Questi mi sa che sono i cloni, Andreotti era originale. Ho capito, ma quello c'ha 80 anni, ma adesso non lo dovete crocifiggere, il povero Marini, c'ha 80 anni, ho capito, l'ha proposto Bersani, sembra tutto, no, tutto ok col PDL, e poi in realtà la base, quelli su Twitter, alcuni deputati hanno fatto casino, i renziani, e quello è successo. I onorevoli parlano di base, ma quale base? Ma infatti, la base oggi si è ribellata, ha detto che Marini non poteva andare, la base è una base che c'hanno loro. Sì. Una base che hanno sono inventati loro. Ma lì un dirigente dovrebbe avere in mano la situazione, il polso della situazione. Sergio da Milano, buonasera. Vabbè, sai, dovrebbe dire allora fai tu, basta, me ne vado, e dire a Renzi va bene, vieni tu, fai tu, decidi. Vado. Allora Sergio, dica. No, io volevo chiedere al Parenzo quale sarebbe il livello alto, siccome è tutto di livello basso, mi chiedevo insomma di spiegarci qual sì, è. Sì, però lei deve abbassare la radio innanzitutto. È il livello basso. O spegnere la radio. Questa idea bastarda della democrazia in cui tutti possono decidere, questa illusione che tutti possono decidere tutto, non funziona così, non c'è la rete, la democrazia è un'altra roba, non è questa falsa merce sarebbe buttata lì con l'illusione di candidare Parenzo, Tizio Caio, ma su. Cosa. Ma su. Un attimo. Ma su. Ridicolo. Non c'è nessuno in questo posto. San Pio delle Camere, il paese natale di Marini. Beh, quanti abitanti che sono? Non si ritira ancora, Bersani fa lotta. Le primarie per un altro candidato e lui non si ritira. Lotta come un lupo. Adesso non si è ritirato. Stefano, provincia di Roma. Lotta come un lupo, Vada. Mi sentite? Sì. No, io rimango, guarda, io quando sento queste cose oggi, io ho 27 anni, no? Quindi sto cazzo de Marini vado su internet e vado a vedere chi è. È un altro cadavere! Ma dico, ma in Italia siamo fuori, io! È arrivato lui. No, io stavo a sentire prima, ascoltatore di prima che ha detto la stessa cosa. Ma perché tutti i cadaveri? Avete una spiegazione? È arrivato, cioè, il giovane. Secondo me dovrebbe essere. È arrivato Pipino il giovane. No, veramente, a parte che. Io non voglio dire bravo e meno bravo, ma sono tutti cadaveri. Questi sono anni che saccheggiano sto paese. Un attimo solo, saccheggiatore. Saccheggiano. Ma Marini che ha fatto? Oh, mi sono fissato su questa cosa stasera. Ma chi è questo? Sempre... Un Marini, un altro Marini. San Pio al diavolo, là dov'è? Pronto? Sì, buonasera. Casa Marini? Sì. Oh, buonasera, signora. Buonasera, bene, viva. Cerchiamo grazie. Il signor Franco Marini noi, o Casa Marini, sia casa del senatore Marini. Qui è San Pio, ma non siamo parenti. Ah, lei non è parente? Ma non c'è il signor Marini? No. Nemmeno la lontana, nemmeno un parente alla lontana? No. E chi è il parente? Io sto cercando un parente, il signor Marini. Mi Daniele Leonello. Come si chiama? Daniele Leonello. Ah, Leonello di cognome? No, Daniele. Sì. Il cognome, Leonello il nome. Oh, e chi è questo qua? Chi sarebbe questo? È il cugino. Oh, il cugino. Un fratello, non c'è là a San Pio? No, i fratelli non ce l'ha, le sorelle ce l'ha a Rieti, Roma. Certo, ma abitatevi, lei lo conosce questo parente del signor Marini? Sì. cugino, vabbè. È com'è, dispiaciuto? Lei pure è dispiaciuta che non ce l'ha fatta ieri? Ma io non cioè, lo oggi. So, non lo so. Non lo sa, beh, ti dispiace, sì. Certo, beh, anche perché è il vostro paesano, no? Sì, sì. San Pio delle Camere diventava un paese pazzesco. Il presidente della Repubblica, signor Marini. Vabbè, signora, che dobbiamo fare? Ma come si sta lì? Tutto a posto? Sì, sì, sì. Meno male. Buonasera. Va. Buonasera, grazie, cara. Signora, molto gentile. Grazie, grazie. Grazie. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno scivola. Oh, vediamo. Ci siamo? Ci siamo forse, eh. 20:52. Pronto? Sì. Signor Leonello, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, disturbo? E Parenzo. No, io non intendo parlare con nessuno. No, ma volevo sapere se era dispiaciuto, signor. No, se era dispiaciuto, se era dispiaciuto un po'. Ci sentiamo. Era dispiaciuto. Buonasera. Ma volevamo salutarla. Ma era io lo sto solanando. Buonasera. No, ma era un po' dispiaciuto lei per quello che è successo, signor Leonello. Per favore. Ma così una domanda. Allora, se la faccia lei la domanda e mi risponda. E la faccio. Beh, la ovvio che è dispiaciuto, ha ragione. Per quello che è successo ma stamattina. Ma sì, ha ragione. Ciao, ci vediamo. Buonasera. Un abbraccio fortissimo, eh. Vabbè, uno non è che signor Daniele Leonello, il cugino del signor Marini, capito? Cugino del signor Marini, sì. Incazzato nero, eh. Beh, sai, quando vivi quella roba là, no? E come si chiamasse? Beh, questa roba di diventare il fratello, il cugino diventa presidente mio, cugino, poi lì si usa anche molto, no? Questa cosa. Ma che ne sai, tu cioè, non conosci l'Abruzzo, in provincia del Lago, non ci sei mai andato. Da tante volte invece. Ma quando mai? Ma sei stato molte volte invece degli amici. Roberto da Pesaro, San Pio delle Camere, era il cugino del signor Marini. L'emozione e la delusione dell'amico di Franco Marini, che dice così, Roberto da Pesaro, Roberto da Pesaro. Sì, Roberto, salve. Volevo dire che oggi abbiamo assistito a una cosa molto importante, non so se è storica o meno, comunque molto rilevante per come la vedo io. Cioè? E cioè è stato tentato, no, un accordo di palazzo da Bersani, probabilmente per salvare se stesso e il suo ruolo, che non riusciva più a far nulla, ad espletare, è stato tentato un accordo di palazzo con Berlusconi. Che è come tentare un accordo col diavolo, chiaramente. E la base ha reagito, la società civile ha reagito tutta la notte. Base? Uno scrittore, abbiamo scritto a destra e a sinistra, io stesso ho scritto una mail a Bersani che non so se avrà mai letto o chi per lui. Ma Bersani è il segretario del suo partito, se fa un accordo col PDL per fare Marini, voi lo dovete seguire, non lo dovete martirizzare. Elettore, quindi non sono tenuto né a seguirlo né a seguire un leader che si mette su una strada che per me è pericolosa. Beh, su questo ha ragione. Non posso fare un accordo con Berlusconi, perché se tento un accordo con Berlusconi, Berlusconi vorrà qualcosa in cambio che non è possibile dargli, perché lui tenterà di avere delle. Vabbè, a domani 18:30. Sì. Ciao. Raffaello Mascetti, Valeria Marini. Nulla. Carfagna, non hai requisiti, nulla. Rocco Siffredi. Eccolo qua. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Occhio che stiamo degenerando, eh.